E rieccoci sulla linea d'ombra, bentornati a tutti voi navigatori del web, se non che nostri ascoltatori. Vi avevo promesso che avrei letto la teoria della ciclicità della fortuna e vado subito a mantenere la mia promessa. In merito alla ciclicità della fortuna, sappiamo che il ciclo della fortuna può essere indotto per via artificiale, mediante l'utilizzo di programmi ipnotici che sembra abbiano effettivamente un'efficacia. Un riscontro reale nel provocare una reazione tra il singolo individuo e l'ambiente che lo circonda. Detto in soldoni, l'individuo che utilizza questi programmi ipnotici riesce ad influenzare positivamente l'ambiente e le situazioni, cioè gli eventi, con cui quotidianamente interagisce e di cui fa esperienza. Infatti, negli ultimi 3 anni, diverse ricerche sono state effettuate in questa direzione. Alcuni partecipanti al programma Fiscal PK Luck hanno ottenuto straordinari risultati utilizzando la metodologia a cui abbiamo accennato. A tal proposito, possiamo affermare che per la prima volta nella storia i fenomeni legati agli eventi legati al come attrarre la fortuna sono stati scrutinati ed analizzati in tutti i dettagli e sono state fatte diverse scoperte sensazionali. Fino ad oggi il termine fortuna era direttamente legato ai pensieri di abbondanza, felicità e gioia, ma mai si era cercato di comprendere i meccanismi responsabili della creazione degli eventi fortunati. Fin dalla nostra infanzia abbiamo dimestichezza con il sostantivo infatti. Nessuno ci ha mai spiegato cosa voglia veramente significare aver fortuna. E qui rientriamo in una sfera un po' diversa che dice: dal punto di vista scientifico, la fortuna è considerata come un'interazione psicocinetica con il nostro ambiente. Qui entriamo in una sfera che va ad abbandonare totalmente l'astratto perché entra in una formula, diciamo, cioè un'interazione. È come se fosse una reazione chimica tra due fattori, quali sono la psicocinesi e l'ambiente circostante. Essa è inerente all'abilità di manipolare, solitamente a livello prettamente subconsciente, eventi entro il loro ambiente, allo scopo di produrre inaspettati risultati favorevoli. L'espressione inaspettati risultati favorevoli ci porta nel cuore stesso del fenomeno, lì dove giace l'immutabile legge che governa la fortuna. Io direi che è molto, molto difficile e astratto da comprendere come possa avvenire questa reazione, che loro veramente chiamano interazione psicocinetica con l'ambiente. L'articolo prosegue dicendo, con un sottoparagrafo, che si chiama La fortuna è un fenomeno poco studiato. L'aspetto meraviglioso della faccenda, signore e signori, è che il fenomeno fortuna non ha mai ricevuto grande investigazione da parte della comunità scientifica. Oggi come ieri c'era una vasta ricerca scientifica nel campo della fisica quantistica, in questo caso più oggi che ieri. La dottrina che studia il movimento e l'interazione delle particelle più infinitesimali dell'universo nel campo dei sistemi di propulsione per veicoli spaziali. Nello storage e nel trasferimento delle informazioni digitali e nella cura del cancro, fin anche nello studio dell'energia atomica ai fini non bellici, ma non si conoscono studi di qualunque tipologia nel campo della primordiale capacità umana di produrre eventi fortunati, né se essi possono in qualche maniera essere slegati dalla nostra coscienza. Ad esempio, un cane può beneficiare di un evento fortunato? Può attirare la fortuna? Questo è ciò che si domanda l'autore in merito. Quindi vediamo che queste cose, queste fonti di ricerca che investono dei territori che non sono propriamente razionali e scientificamente probabili, in qualche modo vanno ad interessare le persone, cogliere un non so che, perché uno dice sì, è una cosa che noi non possiamo gestire. Quando uno dice questa è una cosa di cui io non posso, con cui io non posso interagire, non posso metterci mano, perché è una cosa che non dipende da me, perché se si vanno a innestare un sacco di situazioni che io non posso governare, di cui io sono fuori e non posso agire attraverso il mio intervento, non posso farci niente. Lì sono, è quello che è il caso, appunto, che, di cui si parlava prima, che va a creare delle circostanze, delle variabili che io non posso manipolare in nessun modo. Invece qui si cerca di interagire a livello scientifico in queste situazioni. Vi lascio ad un'altra pausa, non mi abbandonate, restate con me, possibilmente comunicate per dirci il vostro pensiero.